voce. Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda, 19ª puntata. In cucina non si sentiva più alcun rumore. Senza dubbio, zia Paola, curiosa, stava ad origliare su all'uscio della cameretta del balcone. Purché i due uomini non accennassero all'orribile segreto, no, non era possibile. Paolo non sapeva, non dubitava, non poteva credere. E prete Virdis aveva detto: prima che io parli di ciò, le mie labbra si disseccheranno. No. Essi discutevano forse sulla scomparsa di lei. Paolo forse diceva: so che lei è qui, voglio rivederla, voglio costringerla a tornare a casa. E prete Virdis sbuffava e rispondeva: angelo Santos, quanto sei cocciuto, figlio caro. Non hai capito che Annessa è andata via lontano e che le conviene di non ritornare mai più in casa tua? Un passo in cucina, poi di nuovo silenzio. Sì, senza dubbio, zia Paola era salita su fino all'uscio della cameretta e stava ad origliare. Annessa ne provava dispetto ed invidia. Anche lei avrebbe desiderato salire la scaletta, mettersi ad ascoltare. Quasi vinta dalla tentazione, ripiegò il foglietto, s'avvicinò all'uscio e cominciò ad aprirlo, senza far rumore. E subito vide Gantine seduto immobile sulla panca in fondo alla cucina. Egli fissava gli occhi sulla porta d'ingresso, ma dovette accorgersi di qualcosa perché subito si alzò e si guardò attorno. Non vide nulla. Annessa s'era ritirata rapidamente e aveva chiuso l'uscio appoggiandovisi tutta, quasi per impedire al giovine di penetrare nella cameretta. Passarono alcuni momenti. La voce di zia Paola la richiamò dal suo stupore e dal suo turbamento. «Gantina, che fai qui?» domandava inquieta la vecchia. «Vi aspettavo. Adesso però stavo pensando di portar via la pentola che bolle sul vostro focolare», rispose il giovine sforzandosi a mostrarsi disinvolto. «Avresti fatto un magro affare. Credi che contenga fave con lardo la mia pentola? No, guarda, contiene patate». «Siediti, Gantine. Com'è che non sei partito per la foresta?» «Dal momento che son qui non posso essere ripartito», egli disse acremente. E di nuovo, per qualche momento, il silenzio regnò nella cucina. Annessa ascoltava palpitando. Aveva paura che Paolo, andandosene, entrasse e nel vedere Gantine provocasse una scena. «Sì», disse il servo dopo un momento. «Don Paolo voleva che io partissi, ma io mi infischio di lui. Egli è arrabbiato questi giorni, sembra il diavolo in persona, ma sono arrabbiato anch'io, sono arrabbiato con tutti e con voi anche, soprattutto con voi». «Maria Santissima», esclamò la vecchia, non senza ironia. «E perché sei così arrabbiato, Gantine?» «Lo sapete il perché, zia Paola. Annessa è qui. È nascosta qui, forse è là, dietro quella porta. Ebbene, che la mi sente sia lì, bisogna che io parli». «Parla piano», supplicò la vecchia. «Parla pure, ma non alzare la voce. Annessa non può sentirti. Così sia lontano da noi il diavolo come ella è lontana da qui». «Ella è qui in questa casa», ripeté Gantine con voce triste ma ferma. «Non mentite, non bestemmiate, zia Paola. Abbastanza sono oggetto di riso e di compassione». «Ma che io taccia, che io non parli? No, per Dio, troppo a lungo ho fatto lo stupido. Ora ho capito tutto, tutto ho compreso, zia Paola, e voglio farlo sapere a chi tocca». «A me? Tocca a me? Anche a voi, sì. Diteglielo a quella donna. Ditele che ho capito tutta la commedia. Stasera», proseguì Gantine, «ho veduto Paolo confabulare con zio Socos. Leggevano una lettera. Dovevano senza dubbio combinare la partenza di Annessa. Già, tutti questi giorni essi stanno sempre assieme. E lui, Paolo, il mio padrone, lui crede che io non sappia nulla? mentre so tutto. Ho le orecchie per sentire, gli occhi per vedere. E io non so niente, figlio del cuore mio, io non so proprio niente. Allora ve lo dirò io quello che succede. Paolo vuole sposare Annessa. Ed Annessa forse non è contraria a questo progetto. Da lungo tempo non è più l'Annessa di una volta. Non mi ama più, non pensa più a me. Quando partì per la foresta non mi volle neppure baciare. Io partì con un brutto presentimento in cuore. E dopo è accaduto quello che doveva accadere. Adesso Paolo vuole sposarla perché dice che ella è perseguitata e calunniata per colpa della famiglia De Cherchi. «Come sai queste cose, Gantine? La fantasia ti trascina», disse la vecchia, curiosa e turbata. «Non ti inganni? Non ti inganni? No, non mi inganno, non mi inganno, zia Paola. Il fatto è così. Perché Annessa non torna a casa? Perché Paolo non vuole». Perché egli ha avuto ed ha continuamente lunghe e acerbe discussioni con i suoi nonni e con sua madre? Essi credono Annessa colpevole ed anche Paolo lo crede. Egli dice che vuole sposare Annessa per dovere. Essi lo chiamano pazzo. Egli dice che vuole andarsene via, lontano, nelle miniere, condurre Annessa con sé. Donna Rachele piange, sempre. Don Simone pare moribondo, moribondo per la rabbia e il dolore. Le cose stanno così, zia Paola, stanno così purtroppo. Ma Annessa forse non ne sa niente, no? Essa è d'intesa con Paolo, altrimenti sarebbe tornata a casa. Essa non torna perché è quello che è, la donna degli inganni e delle perfidie, il gatto selvatico traditore. Io oramai la odio. Io non la sposerei più, neanche se avesse 2 tankas da 1000 scudi l'una. Ma allora perché la cerchi? Che ti importa più di lei? Lasciala tranquilla. Io l'odio, ripeté Gantine, ma con voce monotona e triste. Dietro l'uscio Annessa mormorava tra sé: meglio, meglio, meglio così. Io la cerco, riprese Gantine. Non è vero, non mi importa più nulla di lei, solo... vorrei vederla per dirle che non sono uno stupido, per dirle che io non voglio essere un uomo ridicolo, per dirle che ho pietà di lei, povera disgraziata. Ella non ha mai veduto il chiodo che le forava gli occhi. La stupida è sempre stata lei, non io. Io sono un uomo, soffro e soffrirò, ma forse vincerò la prova e mi dimenticherò di lei e troverò un'altra donna che mi vorrà bene, ma lei, lei che farà? Anche se sposa il padrone, che farà? Sarà sempre la serva. Paolo la bastonerà fin dal primo giorno della loro unione. Farà ricadere sopra di lei tutti i guai che l'hanno perseguitato. Annessa è stata sempre tormentata e sfruttata da loro e continuerà ad essere il loro zimbello, la loro vittima. E io riderò. Vedrete che riderò, zia Paola. Intanto però non rideva. La sua voce lamentosa e dispettosa pareva la voce di un bimbo pronto a piangere. Zia Paola non sapeva che dirgli e andava e veniva per la cucina preparando la tavola per la cena e cominciava ad inquietarsi anche lei al pensiero che Paolo potesse da un momento all'altro scendere e sentire le cattive parole del servo. Del resto, egli proseguì, vi assicuro che non mi importa proprio niente, ne trovo io delle donne e più belle, più oneste, più giovane di lei. Ella ha quasi 40 anni, io non ne ho neppure 27, vada al diavolo, quando lei sarà vecchia io sarò ancora giovane. Ma giusto, è quello che dico io, perché ti inquieti tanto dunque? Guardati un'altra donna, non perder tempo, Giglio mio. Ci sarebbe Ballora, la nipote di Anna De Cherchi, che ti converrebbe. Ha qualche cosetta anche. Ma Gantine batté le mani e disse con un grido di rabbia: state zitta, perché mi parlate di queste cose? Io non penso a questo adesso. Non gridare. Senti, mi pare che scendano. Chi? Micheli e Don Paolo. Don Paolo è qui, egli disse abbassando la voce. Bisogna allora che me ne vada. Si alzò, stette in ascolto. Dietro l'uscio Annessa cercava invano di reprimere la sua ansia. Io vado, disse Gantine dopo un momento con la voce mutata. Zia Paola, buonanotte. Non so se domani potrò ritornare. Se vedete Annessa, come certamente la vedrete, ditele così da parte mia. Annessa, fai male a trattarmi così. Fai male perché se c'è una persona che ti vuole veramente bene, sono io. Annessa, mandami a dire qualcosa, farò quello che tu vorrai. E poi le direte così. Anche se è vero quello che la gente dice che tu hai fatto morire il vecchio, a me non mi importa. Io l'avrei fatto morire un anno prima d'oggi, l'avrei strangolato, l'avrei buttato sul fuoco. Bei sentimenti hai, Giglio d'Oro, esclamò zia Paola. Andrai all'inferno, vivo e sano. Quando fu per uscire, aggiunse, le direte poi così. Annessa, non fidarti di Paolo. Egli è una vipera, null'altro. Egli non ti vuole bene. Se ti vuole sposare è perché crede che tu abbia ammazzato il vecchio per lui e non vuole avere rimorsi. È uomo di coscienza, don Paolo. Ah, un'altra cosa che ho saputo stamattina, concluse ritornando indietro di qualche passo. Le direte così poi. Annessa, c'è una donnaccia di Magudas, una vedova facile e danarosa, la quale l'altro giorno si è vantata che Paolo De Cherchi è innamorato pazzo di lei e che lei gli ha prestato molti denari il giorno prima che zio Zua morisse e che gliele ha prestati perché egli ha promesso di sposarla. Buonanotte, zia Paola. Aspetta, aspetta, implorò la vecchia curiosa correndogli appresso. Ma egli andò via, promettendo di ritornare. Annessa, appoggiata all'uscio, con le braccia tremanti abbandonate lungo i fianchi, si sentiva soffocare come quando, nella notte del delitto, aveva saputo che Paolo era passato nella via senza avvertirla e si sforzava a non credere alle parole di Gantine, ma in fondo al cuore sentiva che egli non aveva mentito. Ubriaca di dolore ripeteva a se stessa «Meglio, meglio, meglio così!» Andato via Paolo, prete virtis, nonostante i replicati richiami della vecchia, non si mosse dalla cameretta del balcone. Coi gomiti sulla tavola, le dita tra i peli rossicci della parrucca, sbuffava e ripeteva a voce alta: «Che fare? Che fare?» Paolo gli aveva dichiarato che voleva, a tutti i costi e contro la volontà di tutti, sposare Annessa. Egli la riteneva colpevole e appunto per questo voleva sposarla. Ma in questa decisione c'era tanta rabbia, tanto rancore, che prete Virdis ne provava sgomento. Sarebbe il matrimonio del diavolo, pensava strappando i capelli della parrucca. Poi si sollevò e cominciò a contare sulle dita. Primo, non credo alla decisione di Paolo. Egli è però capace di perseguitare Annessa e di andare a raggiungerla a Nuoro. Secondo, credo poco anche al pentimento e alla conversione della disgraziata. Mi spaventa, soprattutto in lei, la mancanza di rimorso. Ella ora è invasa da una specie di mania religiosa, ma se rivede Paolo, scommetto che gli ricade subito tra le braccia. Terzo, se questo avviene, siamo tutti perduti. Perduti loro, i due disgraziati, perduti i vecchi nonni, l'infelice madre, perduto io davanti al Signore, io che non sarò stato buono di salvare un'anima disgraziata. Perduti, perduti. Micheli, non si cena stasera, vieni giù, tutto è pronto. Zia Paola stava sull'uscio. Egli la guardò senza vederla e ripeté desolatamente: perduti. Che cosa hai perduto? Domandò la vecchia inquieta guardando per terra. Fammi venire su quella donna, va? Egli disse levandosi la parrucca un'altra volta e andando su e giù per la camera. Ma come non vieni giù, Micheli? Parlerai con lei mentre ceneremo. Non è tempo di cenare, va? Mi pare sia tempo di portare qualcuno al manicomio, borbottò zia Paola e scese le scale sbuffando e sospirando anche lei. Annessa salì, muta e triste, ma rassegnata. Prete Virdis continuò ad andare su e giù per la camera e al solito non la guardò. Annessa, hai letto la lettera? Che hai deciso? Di partire. Paolo era qui, abbiamo parlato a lungo. Sai cosa vuole fare? Vuole sposarti. La sua famiglia non vuole, ma egli è deciso. Ora si è deciso, angeli santi. Che ne dici, Annessa? Vuoi sposarlo? No, ella rispose subito. Perché non vuoi sposarlo? Prete Virdis, lei lo sa meglio di me. Io? Lo so? Sì, tu l'hai detto. Vuoi fare una vita di penitenza. Così parli oggi. Ma tra un mese, tra un anno, parlerai ancora così? Se rivedi Paolo, non ricadi con lui in peccato mortale? E non è meglio forse che vi sposiate? No, mai, ella disse con forza. Egli vuole vederti. Egli sa che sei qui, sa dove andrai, sa tutto, insomma. Dice che ti seguirà, che ti perseguiterà. È meglio che tu lo veda e gli dica quello che pensi. No, non voglio vederlo, prete Virdis mio. Non glielo permetta. Ecco, tu hai paura di rivederlo. È meglio allora che tu lo riveda e fra voi vi intenderete. E se vuoi sposarlo, sposalo pure, Annessa. Questa sarà forse la tua maggior penitenza, ma una penitenza che costerà molte lacrime anche ad altri innocenti. E Dio, vedi, Dio, ti ripeto, è misericordioso. Egli ti ha perdonato e non ti impone di castigarti oltre misura, ma ti impone di non far più male agli altri, hai capito? Ella lo seguiva con gli occhi, lo vedeva irritato. Capiva che egli diffidava sempre di lei. Che fare? Che dire per convincerlo? Prete Virdis, rispose semplicemente. Il tempo risponderà per me. Il tempo, ripeté con voce monotona, volgendo gli occhi verso il balcone, quasi per scrutare fuori nell'orizzonte buio il mistero dell'avvenire. Prete Virdis si fermò. La guardò di sfuggita, scosse la testa. «Tu dunque non vuoi vederlo? Pensaci bene. Hai tempo tutto domani. Ho già pensato. Non voglio vederlo». Scesero. Zia Paola aveva chiuso il portone ed era andata a prendere il vino in cantina. Prete Virdis pranzava e cenava in cucina, come un contadino. I suoi pasti erano frugali, ma innaffiati da abbondante e generoso vino. Anche quella sera bevette discretamente, poi cominciò a chiacchierare e a discutere con zia Paola, la quale ripeteva le cose dette da Gantine. Prete Virdis si irritava contro il servo chiacchierone e leggero come una donnicciola, ma non difendeva Paolo. Annessa ascoltava e taceva, come se i suoi ospiti non parlassero di lei, ma di una persona che ella non avesse mai conosciuto o fosse morta da lungo tempo. D'un tratto però, mentre zia Paola andava di nuovo in cantina, ella sollevò gli occhi e disse: «Prete Virdis, le domando una grazia. Mi faccia partire domani mattina». «Angelo Santos, hai ben fretta, Anna. Fino a post domani mattina non è possibile. Mi faccia partire. Altrimenti mi avvierò a piedi stanotte, bisogna che vada, è tempo». Zia Paola rientrò con una bottiglia in mano e ricominciò a borbottare. «La botte è in agonia, vien giù appena un filo di vino, la nostra casa è diventata un'osteria. Stureremo l'altra botte, cara mia, tutti i mali fossero come questo». Dopo cena Prete Virdis uscì e quando rientrò batté all'uscio della cameretta di zia Paola. Annessa era già a letto. Aveva la febbre e sonnecchiava, immersa in una nebbia di sogni affannosi. Sentì benissimo la voce del prete, ma le parve di continuare a sognare. «Annessa, domani mattina, all'alba, trovati vicino al ponte e aspetta la vettura postale. Prima di andar via, vieni su da me. Paola, vieni, ho da dirti una cosa». Zia Paola, in cuffia e sottanino, ricominciò a borbottare. «E cosa vuoi? Neppure la notte mi lasci in pace, non riposi, non lasci riposare. Devo andare a letto. Vieni, anima mia, due parole sole». E quando furono nel cortile le disse: «Bisogna prepararle un fagotto, mi pare. Non bisogna mandarla via così. Avresti qualche sottana, qualche camicia da darle? Tu diventi matto davvero, Micheli. Adesso vuoi anche spogliarmi, strapparmi la camicia, strapparmi anche la pelle. Davanti al Signore compariremo senza camicia ed anche senza pelle, egli disse severamente, sebbene poco a proposito. Meno chiacchiere, Paola, pensa a fare un'opera di carità. Ma non capisci che dentro una delle mie camicie ci stanno 3 annesse? Questa ragione parve convincerlo. Non insisté e salì al buio la scaletta. E zia Paola chiuse la porta di cucina, rientrò nella sua cameretta, ma invece di coricarsi, aprì la cassa, cercò qualche cosa, fece un fagotto e nella cocca d'un fazzoletto annodò una moneta d'argento e mise il fazzoletto dentro il fagotto. Prete Verdi, intanto acceso il lume e chiuso l'uscio, guardava anche lui nel suo cassetto contando il poco danaro che aveva. Fra questo poco c'era una monetina d'oro da 10 lire che egli aveva ricevuto da donna Rachele per la celebrazione di 5 messe funebri in suffragio dell'anima di Zua de Cherchi. E poiché il resto del poco danaro era in rame e pesava troppo, egli decise di dare ad Annessa la monetina d'oro. Elisabetta Piccolomini ha letto L'Edera di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.